Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, sostanzialmente due, e chiaramente da un lato l'avvio oggi molto presente su tutti i giornali del QE, del quantitative easing, ossia dell'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e soprattutto su mandato della Banca Centrale Europea da parte delle banche centrali dei singoli paesi. Chiarito poco fa l'ammontare che spetterà all'Italia in tutto 150 miliardi di euro. In tutto vuol dire da qua a settembre del 2016, nel senso che ogni mese gli acquisti per tutta l'area euro saranno di 60 miliardi di euro. La quota parte italiana fa sì che da qua a settembre dell'anno prossimo si arriverà a 150 miliardi, in realtà 130 verranno comprati dalla Banca d'Italia, gli altri 20 fanno parte degli acquisti della BCE. Ancora su questo lo chiarisco subito, visto che ci sono già dei messaggi, gli acquisti vengono fatti sul mercato secondario, quindi non si tratta di nuove emissioni, ma si tratta di acquisti su titoli già esistenti. Allora, come vanno gli spread? Dunque, i rendimenti dei titoli italiani a 10 anni sono in calo all'1,28% il BTP italiano a 10 anni lordo come rendimento, mentre lo spread è leggermente in rialzo, ma per un motivo molto semplice, perché è calato di più o è calato ulteriormente il rendimento dei titoli tedeschi. Sapete che lo spread è la differenza tra quanto costa a noi indebitarci, quindi quanto dobbiamo pagare di interessi sul debito misurato sul BTP a 10 anni, rispetto a quanto non costi alla Germania, anche qui sempre sul titolo di Stato a 10 anni, e la differenza si chiama spread. Siccome è calato il rendimento di quelli tedeschi, lo spread italiano è leggermente aumentato, infatti è una differenza, ma appunto non per un aumento dei nostri rendimenti, all'1,28% dall'1,31% di stamattina, quindi lo spread è a 94 punti base. Per precisione, il Bund a 10 anni tedesco rende lo 0,34%. Le borse come hanno reagito? Allora, fermo restando che la decisione era più che scontata, è stata annunciata 2 mesi fa e quindi i mercati la stavano scontando da tempo, le borse sono tutte leggermente negative tranne Francoforte e Milano. Milano guadagna lo 0,50, Francoforte lo 0,20, Parigi perde lo 0,60, Londra perde lo 0,50, poi il Dow Jones in America guadagna invece lo 0,60%. Tra i titoli segnalo come caso di giornata Saipem, qui c'è la vicenda Gazprom, guadagna il 4,20%, poi Popolare Emilia Romagna più 3,60, Atlantia più 2,5, Tenaris più 1,90, Eni più 1,80, Pop Milano più 1,70, Monte dei Paschi più 1,5. A muovere i titoli bancari non c'è tanto oggi l'avvio dell'acquisto di titoli da parte della BCE, ma soprattutto l'ipotesi ventilata da alcune banche d'affari che la riforma delle banche popolari, ne parleremo più avanti, porterà a aggregazioni e fusioni in quel settore in Italia. Se non ricordo male, Goldman Sachs che ha espresso questa valutazione, e da lì si muovono infatti soprattutto le popolari, nel senso che Intesa San Paolo guadagna invece lo 0,70%, Unicredit è invariata e devo dire che anche UbiBanca oggi è poco mossa, più 0,21. Chi perde? Poca roba, Moncler meno 2 come Telecom Italia, l'1,5 lo perde Jux come Mediaset, l'1,20 Tolz, l'1% del calo di G-Tech. Parleremo quindi in due fasi dell'operazione per la prima volta fatta in Europa, l'America l'ha fatta subito dopo la crisi, già dal 2009, con risultati positivi che si sono visti. C'è chi dice l'area euro arriva tardi e quindi servirà meno, vedremo. E l'altra vicenda invece molto forte, che riguarda sempre i temi europei, è la Grecia, nel senso che sulla Grecia, come prevedibile, viste le posizioni distanti, oggi non si arriverà a nessun tipo di soluzione, più che accordo. I ministri delle finanze dell'area euro sono riuniti per il vertice Eurogruppo per ascoltare il piano, i dettagli del piano di riforme in 7 punti, quello inviato dal ministro greco Yanis Varoufakis all'Unione Europea, ma non daranno, ormai è cosa certa, alcun via libera alla tranche di che manca da Atene, 7 miliardi e 200 milioni di euro, che è chiamata tranche di salvataggio, perché come abbiamo già spiegato la settimana scorsa, la liquidità è un tale problema in Grecia che manca e rischia di non permettere al paese di arrivare a fine mese, per dire con un'espressione un po' colorita ma abbastanza vicino al vero. Tra l'altro, mentre la cancelliera tedesca Merkel si è detta solidale, ha però aggiunto: sulle riforme c'è ancora molto da fare. La borsa di Atene ha chiuso con un forte ribasso, meno 4,20, con le banche greche che hanno avuto cali a due cifre. Ricordo che venerdì poi vi sarà l'incontro tra il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il premier greco Alexis Tsipras, ma segnalo che insomma, se da una parte il presidente dell'Eurogruppo Aaron Dijsselbloem dice adesso basta perdere tempo, abbiamo già perso troppe settimane, l'estensione degli aiuti è solo per 4 mesi, abbiamo già perso 2 settimane, allo stesso tempo c'è stata una dichiarazione interessante, perché la dice lunga sul clima politico. La dichiarazione è del ministro alla difesa greco, si chiama Panos Kamenos, e ha detto: attenzione, se loro, riferito ai tedeschi, vogliono assestare un colpo alla Grecia, allora devono sapere che i migranti, e quindi gli extracomunitari che sbarcano sulle coste greche, di passaggio in Grecia, ai migranti daremo i documenti per andarsene a Berlino. Inonderemo di migranti quelli che non ci aiutano. Insomma, è un modo molto disteso per rasserenare il clima tra Grecia e il resto d'Europa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Per quello che riguarda come sempre l'economia internazionale, anche oggi diamo la quotazione del petrolio, è a $50 il barile, è salito dell'1%, poco mosso. In Giappone invece la notizia è che il Giappone è uscito tecnicamente dalla recessione nel trimestre ottobre-dicembre, ma con una crescita più lenta rispetto alle attese, più 0,4%. E rispetto al trimestre precedente, più 1,5% rispetto a un anno prima. Il governo di Tokyo si attendeva un più 2,2. Le vendite di McDonald's sono calate in febbraio dell'1,7%, un dato ben peggiore di ogni stima degli analisti. Ma la cosa interessante è che, poi non abbiamo tempo adesso di parlarne, è proprio da quello che vediamo il modello McDonald's a essere messo in discussione. Ci sono catene diverse in America che fanno concorrenza anche su fasce di prezzo leggermente più alte rispetto a McDonald's nello stesso settore. Tant'è, e la critica è stata di molti osservatori, McDonald's è un modello di successo che però non è mai cambiato, e i modelli di successo, quando non li cambi, diventano modelli di insuccesso a lungo andare. Tant'è che la stessa McDonald's ha ammesso che va cambiato il modello che hanno. I bisogni e le preferenze dei consumatori sono cambiate, le performance di McDonald's riflettono l'urgente bisogno di evolversi con i consumatori, rivedendo le priorità. Alcuni di voi mi chiedono: ma complessivamente quanti quanti titoli di Stato comprerà la BCE. Da qua a settembre del 2016 la stima è di 1.100 miliardi di euro, di cui appunto 150 di titoli di Stato italiani. Ancora, veniamo all'Europa. C'è stato un calo dell'export tedesco a gennaio 2015, -0,6%, c'è comunque una bilancia commerciale in attivo, è scesa però a 19,7 miliardi, un miliardo meno delle attese. Dalla Spagna arriva la notizia invece che i prezzi delle case, la Spagna fu il paese più colpito dell'area euro sicuramente, ma anche a livello europeo, assieme alla Gran Bretagna, più colpito dalla bolla immobiliare quando scoppiò la crisi, anche perché in Spagna la bolla era ancora più forte rispetto alla Gran Bretagna. Ebbene, per la prima volta dopo 6 anni i prezzi delle case in Spagna sono tornati ad aumentare. Non capitava appunto dal 2008, il dato è riferito all'intero 2014, più 1,8%. Brevemente sull'Italia, dove il faro dell'IVASS, che è l'ente, l'autorità di vigilanza sul mondo assicurativo, si è acceso, diciamo così, sulle promozioni di polizze RC Auto che venivano date in omaggio con l'acquisto della vettura. Perché? Perché dice l'IVASS, attenzione, la modalità con cui queste polizze venivano offerte e le loro caratteristiche verso gli assicurati fanno sì che i benefici siano minori dei costi una volta che vengono meno, no? Perché si rischia di perdere la classe di merito acquisita prima dell'offerta. Banche popolari, ne parleremo nel corso del programma, perché sono quasi 350 gli emendamenti al disegno di legge che riforma le banche popolari, rendendole, nell'obiettivo del governo, contendibili e quindi eliminando il voto capitario, una testa, un voto, al di là delle azioni che hai, e eliminando anche la soglia di possesso, attualmente non può essere superiore all'1%. Il decreto dovrebbe approdare di fronte all'Assemblea domani, al termine della discussione sul voto. E poi sappiamo che il governo deciderà in base anche a numero di emendamenti e tipo di emendamenti se porre o no il voto di fiducia. Dunque, i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, in collaborazione con RDS, con Radio Dimensione Suono. Oggi la firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Arioli, e come immaginabile sono dedicati proprio al quantitative easing, al via, alla partenza dell'acquisto di titoli di Stato dell'area euro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La BCE ha cominciato a comprare titoli di Stato e non solo per rilanciare la domanda e far ripartire l'economia. La festa dell'Eurotower, però, è stata rovinata dalle incertezze sul futuro della Grecia, tanto che i mercati non hanno mostrato particolare euforia per la partenza del cosiddetto bazooka di Mario Draghi, peraltro l'avevano in gran parte già scontata, quanto piuttosto hanno mostrato un timore per le incertezze di Atene. Eppure è una novità storica per la Banca Centrale Europea, che d'ora in poi si immetterà sul mercato 60 miliardi di euro di liquidità ogni mese, comprando o facendo comprare dalle banche centrali nazionali titoli di Stato e anche corporate sui mercati secondari. La BCE sta acquistando adesso titoli tedeschi, francesi e anche italiani. Ma è la Grecia che preoccupa gli investitori. Il piano in 7 punti presentato da Atene alla Commissione per avere in cambio lo sblocco di 7,2 miliardi di aiuti, senza i quali Atene non può nemmeno pagare gli stipendi ai fornitori, è stato bollato dall'Eurogruppo come un piano da dilettanti perché allunga i tempi delle riforme e ne esplicita troppo vagamente i contenuti. Siamo quindi al braccio di ferro. Per il governo greco però è un problema. La componente di estrema destra che ne fa parte impedisce ogni apertura alle istanze europee, tanto che Tsipras non ha escluso il ricorso a un referendum. Sarebbe sulle riforme da fare, naturalmente, ma inevitabile che avrebbe il sapore politico di un plebiscito pro o contro la moneta unica. D'altro canto l'Europa comincia a ragionare anche su un'ipotesi di uscita della Grecia dall'euro. Sarebbe uno scandalo per così dire calcolato, significherebbe che l'euro non è una moneta irreversibile e questo naturalmente aprirebbe il fianco alla speculazione, ma verrebbe annunciato quando Draghi ha già messo in mare tutte le ciambelle di salvataggio e la scialuppa del quantitative easing che è temuto dagli speculatori. In ogni caso sarebbe meglio che Grecia e Unione Europea ritrovassero la strada dell'accordo, le altre strade sono comunque dei salti nel buio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Dire non perché sono i nostri 100 secondi, ma in questi 100 secondi di Alberto Orioli c'era veramente tutto, cioè c'era la festa, se vogliamo così dire, per l'acquisto di titoli di Stato da parte della BCE e delle banche centrali nazionali e la festa rovinata dal braccio di ferro con la Grecia. Non a caso anche noi teniamo assieme i due temi. Bene ha fatto Alberto Orioli a dire certo che si può ragionare sull'uscita della Grecia dall'euro. Lo si faceva anche nel 2012, ricorderete, no? Il piano B, l'euro A e l'euro B, le sale operative delle grandi banche d'affari che già facevano tutte le simulazioni. Il punto è chiaramente politico da questo punto di vista, perché è vero che c'è la rete di protezione di Mario Draghi adesso, che speculare contro l'euro ti costa di più, ma il punto è politico perché una volta che tu accetti che un paese possa uscire dall'euro, a quel punto tutte le formazioni politiche, non mi interessa, sono molto diverse tra loro, Podemos in Spagna, la Le Pen in Francia, da noi la Lega nella nuova versione di Salvini, avrebbero una speranza in più dal punto di vista politico di dire se votate noi si può fare, no? Quindi attenzione, non è tanto di carattere economico sullo spread, è capire se l'Europa ha ben preciso, ha ben in mente che cosa vorrebbe dire, oltre a tutte le conseguenze che avrebbe per la Grecia, per l'euro, quant'altro, dare la possibilità politicamente di fare una campagna elettorale sapendo che concretamente si può fare, perché un paese l'ha già fatto. Allora, andiamo con ordine però e partiamo dal quantitative easing. Molti ci stanno chiedendo cosa conviene fare con le obbligazioni. Datemi un secondo e giro la domanda al nostro ospite, che adesso è il dottor Stefano Masante, responsabile rates trading, quindi del trading della compravendita sui tassi di interesse di Banca IMI, che ha seguito proprio dalla sala operativa la prima giornata di quantitative easing. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Non ne posso più di inglesismi. Qui, no, veramente. Sì, è una parola abbastanza difficile, mamma devo mia, ammetterlo. Qui, vabbè. Allora, in italiano sarebbe veramente male, perché alleggerimento quantitativo. Oppure acquisto quantitativo. Sì, fa abbastanza schifo, però. Allora, acquisto i titoli di Stato, così si capisce. Sì. Prima domanda, come è andata la giornata rispetto alle vostre attese? Avevate scontato già tutto, dico non voi come Banca IMI basta, ma tutto il mondo degli operatori in queste settimane? Ma mettiamola di sì, il mercato è arrivato all'appuntamento consapevole di quello che sarebbe stato ovviamente l'azione dell'ECB attraverso le singole banche centrali nazionali, quindi soprattutto per quanto riguarda l'entità totale. C'erano parecchi dubbi relativi alle modalità, quindi dove modalità dico come vengono fatti esattamente gli acquisti e su quali parti delle curve, no? Qua. Poi ditemi se vado un po' troppo sul tecnico, non vorrei correre questo rischio. No, ma infatti diciamo che i movimenti, per far capire a tutti, i vari operatori, sapendo che oggi scattava l'acquisto, lo ripeto, per l'Italia sono 150 miliardi da qua al 2016, a settembre, di cui 130 in carico alla Banca d'Italia e 20 più o meno in carico alla BCE, perché poi da un punto di vista operativo la BCE ha stabilito che siano le singole banche centrali a comprarsi questi titoli, a comprarsi soprattutto loro questi titoli. Dal punto di vista, diciamo, dell'effetto era già il mercato si era già posizionato, diciamo così. L'effetto sintetizza le domande più frequenti che stiamo ricevendo. La prima, sì. Perché uno dice evviva, è partito il QE di Draghi, è partito l'acquisto di titoli di Stato. Che effetti benefici dovrebbe avere sull'economia? E la seconda è che cosa fare adesso con l'acquisto di titoli di Stato? Partiamo dalla prima. Chiaramente, allora, l'effetto positivo, che è quello auspicato, che è veramente il motore di questa manovra, è quello di immettere ulteriore liquidità nel mercato e di abbassare sostanzialmente tutte le curve di rendimento. E in questo l'auspicio di Draghi è che ci sia un effetto di trasmissione sull'economia reale. Sta a dire, veniamo in primis alle banche. Se prima le banche, ma non solo, potevano investire in titoli di Stato che avevano rendimenti molto alti e avere in qui un elevato profitto, quando questi rendimenti si abbassano di molto, è chiaro che le banche saranno più propense a prestare i soldi all'economia reale, ma non solo, ma questo vale anche un po' per tutti, diciamo, gli investitori di qualunque sia natura, no? Quindi anche il singolo, il privato che investiva i propri risparmi in un BTP al 3%, adesso che il BTP a 10 anni è all'1,20%, magari un po' meno interesse a farlo, e quindi potrebbe il primo vantaggio mettere i soldi, sì, non so, per dire, in una casa o in qualche bene, insomma, far girare l'economia, mettiamola così. Allora, il primo vantaggio, diciamo, è rendere sconveniente alle banche, perché in primo luogo sono loro, e poi, se vuole, anche ai fondi comuni, ci mancherebbe. Tutti, banche, fondi, e fino ad arrivare ai privati. Rendere meno conveniente, non sconveniente, ma meno conveniente il parcheggiare i soldi nel titolo di Stato, perché rendono sempre meno. O se il BTP a 10 anni, che è quello che rende di più, rende l'1,28% lordo, vuol dire che non riesce praticamente nemmeno a proteggersi dall'inflazione, quasi, perché se levi le tasse, e poi è su 10 anni, siamo veramente a livelli, quello tedesco rende lo 0,35 lordo, per cui di cosa stiamo, esatto, parlando? È un rendimento negativo al netto delle tasse, immaginando che chi lo compra abbia anche una certa aliquota fiscale. Detto questo, l'altro elemento che si sottolineava, Draghi fa questa operazione per rendere meno conveniente l'investimento in titoli di Stato e quindi liberare, fare in modo che i soldi circolino e vadano altrove, non restino fermi lì in investimenti sicuri ma non utili, sì, per l'economia. Far tornare un po' di inflazione. Sappiamo che il problema della BCE, sì, quello sì, è l'inflazione. Perché? Perché il QE dovrebbe far tornare l'inflazione? Come detto prima, nel momento in cui i risparmi non vanno a finire più solo sui titoli ma cominciano a circolare nell'economia, questo dovrebbe essere una spinta naturale dell'inflazione. Cioè, quindi, una spinta a far riprendere il ciclo economico, e se riprende un po' l'economia riprendono anche i prezzi. Esatto, e mi permetto di aggiungere, il ciclo economico viene fatto ripartire proprio dal fatto che i tassi sono molto bassi, perché io con quei tassi vado a paragonare ogni investimento. Il primo canale può essere, banalmente, sono i mutui. Quindi se io i mutui, come sa, spesso sono espressi con uno spread sul tasso privo di rischio, se io vado a comprimere il tasso privo di rischio, il mutuo che viene concesso a imprese e a singoli aspiranti proprietari di casa scendono notevolmente. Quindi questo, ci siamo ancora, torniamo al discorso del circolo virtuoso, no? Quindi essenzialmente sì, certo, tassi. Certo, è ovvio che se tu hai dei tassi di interesse più bassi, anche i prestiti devono essere più bassi, e comunque tendi a liberare altre risorse. Ma il tema dell'inflazione è un tema, diciamo, indiretto. Se Mario Draghi avrà ragione, le banche, i fondi e perfino i privati cittadini avranno sempre meno convenienza a investire in titoli di Stato, e quindi a investire i propri risparmi o l'amministrato in altri strumenti, che possono essere il mattone, che possono essere, speriamo, i prestiti alle banche, i prestiti alle imprese, e anche i prestiti alle famiglie, nel senso che poi diventa più interessante proporre un prestito a una famiglia piuttosto che comprare BTP a 10 anni. Dopo il meteo e la pubblicità, dottor Masante, vorrei invece capire che cosa fare adesso, perché tutti questi acquisti sono fatti sul mercato secondario, cioè su titoli già esistenti, già comprati, che uno va a trattare nel mercato secondario. Le obbligazioni funzionano che hanno una scadenza, tu le puoi tenere fino alla scadenza, fino a 10 anni il BTP o a 5 anni, oppure nel frattempo li puoi rivendere. Se li porti a scadenza hai il rendimento garantito dall'obbligazione, in questo caso l'1,28%. Se li compri, li vendi, li compri in base al prezzo di mercato. La BCE compra sul mercato secondario, quindi non emette nuove obbligazioni. Gli stati non emettono nuove obbligazioni. Che cosa fare adesso invece per i risparmiatori che, o meglio, alle prossime aste dei BTP e dei BOT? Ce lo chiedono in molti. Sette 39 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, dottor Masante, l'altra grossa domanda, dicevo, sull'operazione che oggi è iniziata è cosa fare adesso per i risparmiatori, cioè conviene comprare le prossime emissioni di titoli di Stato? Questa è una bella domanda. Perché questo è un po' meno il mio pane, ovviamente non posso dare consigli di investimento, questo è ovvio. Se uno la guarda nell'ottica dell'investitore razionale, è chiaro che chi vuole stare sui titoli di Stato a questo punto è meglio che si porti sulle scadenze più lunghe, che in qualche può apparire un po' come un controsenso, perché voglio dire aumento il rischio quando i tassi sono più bassi. La realtà dei fatti è che se io vado a vedere le parti brevi, cioè titoli a 2 o 3 anni, avendo rendimenti molto bassi, se io vado a considerare anche le commissioni e quant'altro, ovviamente ho rendimenti netti che sono negativi. Mentre invece le parti lunghe delle curve sono sì esposte al rischio che a un certo punto tutti i rendimenti tornino a salire, ma al tempo stesso c'è la possibilità che beneficino proprio del QE di Draghi, quindi se il QE funziona e continuano le varie banche centrali nazionali a comprare titoli di Stato e anche a comprare titoli lunghi della curva, è chiaro che sia quello che in gergo si chiama appiattimento della curva, no? Abbiamo ancora i rendimenti della parte lunga che convergono verso i rendimenti della parte più breve. E che comunque convergono verso il basso, diciamo. Esatto. Che vuol dire appunto che in termini di prezzo salgono. Sale il prezzo ma cala il rendimento, per cui attenzione, quello che interessa al risparmiatore è il rendimento. È chiaro, chi mi scrive dice: ma io che ho un BTP che paga il 4%, a me non cambia, no, non cambia nulla se lo tenga, se posso aggiungere, visto che paga. Se lei lo porta a scadenza, un BTP, non so, adesso dovrei andare a vedere quando il BTP rendeva il 4%, se ce l'ha 5 anni o 10 anni. E lo porti a scadenza. Ma lì poi alla fine cambia poco, nel senso che se lo vende subito, realizza subito il capital gain. Se vuole il 4% di rendimento ogni anno, se lo tenga, perché per ora, secondo me, per un po' cose che rendono titoli di Stato che rendono il 4, non ne vedremo. Poi magari vengo smentito domani. Ma altre due domande rapidissime, sì, del dottor Masante. Qualcuno ci sta scrivendo, dico: attenzione, stiamo creando, che è la critica, l'unica critica che è stata fatta, una bolla, la più grande bolla speculativa, nel senso che, aggiungo io, questo non è scritto, molti hanno detto, alcuni hanno detto, invece che aumentare la liquidità era meglio fare investimenti diretti e quindi dare via libera agli eurobond. Mi spiego, la liquidità è il problema famoso del cavallo: se il cavallo non vuole bere, per quanta acqua gli dai non beve, quindi tu puoi anche mettere liquidità sul mercato, ma se non c'è voglia di prestare soldi da parte delle banche alle imprese perché ritengono che la situazione sia ancora delicata, o le imprese non li chiedono perché non hanno programmi di sviluppo, cioè tutta questa liquidità poi va a creare una bolla da qualche parte, magari nel mattone, magari da un'altra parte. Cosa diversa sarebbe stato fare in modo che l'Europa potesse emettere dei piani di investimento attraverso delle obbligazioni, i famosi eurobond, per finanziare le opere infrastrutturali, anche digitali, in modo che creavi lavoro vero, facevi appalti veri, costruivi cose vere e risolvevi il problema dei consumi interni. C'è il rischio bolla? Ma il rischio in questi casi c'è sempre, però se andiamo a vedere dove questo sistema è entrato, cioè ha già lavorato, e quindi parlo di UK, soprattutto gli Stati Uniti d'America, direi che la ricetta ha funzionato, quindi alla fine l'acquisto massiccio di Treasury è stato sicuramente un volano per l'economia, e nel momento in cui, quando è il momento giusto e gli acquisti sono cessati, i titoli di Stato americani hanno perso qualcosa, ma relativamente poco. Comunque parliamo di titoli che a 10 anni rendono ancora il 2,30, e comunque lì il meccanismo positivo per l'economia ha funzionato. Cioè abbiamo, lo vediamo dai dati sul lavoro, non ultimo quello che ha sfiorato i 300.000 di nuovi occupati di venerdì scorso, lo vediamo sulla disoccupazione che è al 5,5% negli Stati Uniti d'America, lo vediamo sull'indice azionario che, insomma, da quando è partito e il QE hanno quasi raddoppiato. Quindi, quindi voglio dire, se tanto mi dà tanto, perché non dovrebbe funzionare anche in Europa? Detto ciò, non è detto che il piano attuale escluda la possibilità di ulteriori poi investimenti diretti, come si parlava del famoso piano Juncker. Quindi potrebbero essere poi anche cose che viaggiano insieme. Allora, ultima domanda, poi veramente non la torturo più. C'è il rischio che le banche centrali, che sono quelle che fanno gli acquisti, restino col cerino in mano quando un giorno i tassi dovessero tornare a salire? Vuol dire che si troveranno con delle obbligazioni che rendono molto meno delle altre, quindi insomma con delle perdite teoricamente? Beh, quello rischio c'è, lì sarà anche un po' più diciamo difficile capire come vengono poi calcolate le perdite, no? Già c'era un tema che, di cui si parlava la settimana scorsa, è: ma le banche centrali che vanno a comprare a tassi negativi, e qua si sa per certo che avranno delle perdite, poi di chi saranno quelle perdite? Quindi diciamo che su questo, sul tema delle banche centrali, non sono un esperto in materia. Mi sento però di dire che comunque in un portafoglio globale di una singola banca centrale nazionale, tutto sommato, quello potrebbe non essere un grosso problema. Comunque potrebbe essere qualcosa. Sì, però le confermo che non c'è ancora un accordo su questo. Perché cosa succede? Che alcune banche centrali, per esempio quella tedesca, la Bundesbank, quando vanno a comprare tassi, quando vanno a comprare obbligazioni tedesche, sono sostanzialmente vicinissime ai rendimenti negativi. In alcuni casi lo sono già. E non ci sono solo Germania, c'è anche la Finlandia e l'Austria. Perché per alcune tipologie di titoli di Stato ci sono 7 i partner dell'area euro che comprano a tassi negativi: Germania, Francia, Austria, Belgio e Finlandia. Ma un accordo su che cosa fare di queste perdite non c'è ancora. Grazie e buon lavoro al dottor Stefano Masante, responsabile appunto del trading, delle compravendite sui tassi di interesse per Banca IMI. Rovinata dalla Grecia, intanto vi do la chiusura di borsa più 0,60%, fra poco vi arriviamo. Allora, mi scrive un ascoltatore, guardi che lei, io sono in completo disaccordo con lei, riferito a quanto dicevo prima sulla Grecia, sulla partita politica nel caso la Grecia dovesse uscire dall'euro, perché dice: attenzione, se la Grecia dovesse uscire, ci farebbe un piacere, e i populisti, vedendo un paese che populisti, immagino che intenda dire i partiti che vogliono uscire dall'euro, non verrebbero votati, perché avremmo modo di vedere il collasso del paese greco, e quindi avrebbe un effetto di dissuasione a votare i partiti che così hanno nel loro programma l'eventuale uscita dall'euro. Quindi l'effetto sarebbe l'opposto di quello che dice lei. Può essere. Se non mette Saverio, non capisci mai niente Barisoni, mi fa ancora più contento, ma ho capito il suo punto di vista, è un punto che ci sta, e cioè dice: guarda che facciamo uscire la Grecia dall'euro, e poi il paese collassa, e a quel punto tutti i partiti che dicono usciamo dall'euro, che si starebbe meglio, si svuotano. Non lo so, mi sembra tutto ancora molto presto, per fortuna. Quello che è certo, dicevo, che il braccio di ferro ormai ha raggiunto dei livelli per cui il ministro alla difesa greco Kamenos ha detto: se loro, i tedeschi, vogliono assestare un colpo alla Grecia, allora devono sapere che i migranti che sbarcano sulle nostre coste avranno i documenti per andarsene a Berlino. Garantiremo ai migranti il passaggio per la Grecia e i documenti per raggiungere i paesi del nord Europa. Come minaccia non è male. Inonderemo di migranti quelli che non ci aiutano. Beh, insomma, con l'Italia caschi male, però gli altri paesi del nord, mi sembra che non si possa inondare l'Italia ancora di più. Con il paese del nord, beh sì, la minaccia c'è tutta. Detto questo, le posizioni. Allora, il vicepresidente della Commissione Europea, che è greco, Valdis Dombrovskis, ha detto sostanzialmente... No, non c'è un commissario europeo che abbia un nome leggibile, non è greco, non ce n'è uno con un nome facile da leggere, faccio solo notare per inciso. Comunque ha detto: i negoziati tecnici vanno chiusi entro aprile. Attualmente sono in corso i negoziati tecnici. C'è ancora molto lavoro da fare e molta strada da percorrere. Con tanto ancora da fare, quello che è importante alla fine è che venga attuato in modo pratico il programma con tutti gli impegni. Il precedente Eurogruppo ha concluso che i negoziati tecnici con la Grecia devono concludersi entro aprile. È certo che se fosse necessario accelerare i negoziati, le istituzioni europee saranno pronte ad accelerare. In realtà dipende dagli impegni che vengono presi da entrambe le parti. Dombrovskis, ce la potrò fare, è lettone, commissario, vicepresidente in realtà della Commissione Europea, e toni un po' più diplomatici li ha avuti il commissario europeo agli affari economici comunitari francese, questo sono sicuro, Pierre Moscovici, perché è di origine italiana. Diciamo Moscovici o Moscovici? Diciamo Moscovici. Oggi non entreremo nei dettagli tecnici. Ciò che è importante è lo spirito. Mi riferisco al fatto che un accordo è passato nel contesto dell'Eurogruppo, che ora stabilisce che devono essere prese delle decisioni, devono essere rispettati gli impegni sulle riforme. Questo ci aspettiamo dalle autorità greche. Ed è anche il senso delle risposte alla lettera del ministro Varoufakis. Oggi c'è bisogno di una discussione costruttiva, positiva, con impegni chiari e con la volontà di arrivare a un obiettivo. La scorsa settimana, con la sua lettera di impegni, Atene ha fornito una lista già abbastanza precisa e dettagliata, che è stata accettata dall'Eurogruppo. Ora bisogna andare più nel dettaglio. Servono discussioni tecniche approfondite con le istituzioni e con il governo greco. L'importante è che oggi il ministro Varoufakis ci dica in quale direzione vuole andare e con quali intenzioni. Sulle proposte del governo greco non voglio commentare, non voglio entrare nei dettagli. Spetta all'Eurogruppo. Stiamo discutendo in un contesto politico e in modo serio con il governo greco. Penso che l'Eurogruppo debba essere considerato per quello che è, un organo politico. L'Eurogruppo doit être gardé comme ce qu'il est, c'est-à-dire une instance politique. Allora, Vittorio D'Arold, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Poi ricorderemo dopo il GR24 i 7 punti di Tsipras e Varoufakis. Fino a quanto regge Atene senza i 7 miliardi e 2 che sono bloccati in questo momento per il braccio di ferro con l'Europa? C'è una stima che passa da un mese a 4 mesi, a seconda delle possibilità che appunto diciamo più ottimiste. La situazione è comunque molto complessa, perché dalle banche greche stanno uscendo soldi perché la situazione è ancora incerta e quindi i correntisti non si fidano di dover avere magari improvvisamente un blocco, quindi il governo che possa essere costretto a fare un blocco nei conti correnti per evitare appunto che la gente porti fuori all'estero. Tra parentesi, oggi hanno scoperto che addirittura un ex ministro delle finanze aveva appunto conti all'estero. Alle 18:08 riprende Focus Economia, in collegamento con noi Vittorio Darold. Allora, fermo restando che la Grecia, Vittorio, ha un mese, da 1 a 4 mesi di liquidità, però stiamo ragionando veramente sul crinale del precipizio. Il pacchetto che l'Europa dovrebbe sbloccare sono 7 miliardi 200 milioni di euro, giusto, di liquidità? Esattamente. Ora, come abbiamo sentito anche dalle dichiarazioni di Dijsselbloem, di Moscovici, di Dombrovskis, la situazione è di stallo totale. Cos'è che preoccupa i partner europei? Perché insomma, il piano di Atene è in 7 punti. Vuole istituire un consiglio di bilancio indipendente per monitorare la spesa del governo, vuole anche portare delle migliorie sul fronte della predisposizione del bilancio, poi la famosa notizia degli studenti per aiutare la lotta all'evasione, si chiamano informatori con un gran numero di osservatori saltuari, gli studenti domestici, persino i turisti. Comunque chi è riuscito a farsi fare una ricevuta in Grecia ce lo scriva, perché è cosa abbastanza rara. Ancora un nuovo piano e leggi più dure per riscuotere le tasse non pagate. La Grecia vanta 76 miliardi di arretrati fiscali. Un nuovo piano per mettere licenze alle aziende di gioco d'azzardo online per raccogliere 0,5 miliardo l'anno. Ridurre la burocrazia e poi le iniziative per affrontare la crisi umanitaria. Con un costo però di buoni pasto, le misure per garantire energia elettrica, l'assistenza ai meno abbienti, un costo di circa 200 milioni di euro, non è un costo, per quanto sia in Grecia, non è un costo pazzesco. Che cos'è che non sta convincendo di questi 7 punti? La estrema vaghezza di tutto l'impianto, nel senso che il governo greco pone degli obiettivi che sono condivisi, come quello appunto della lotta all'evasione fiscale o quello della corruzione, che sono due mali endemici all'interno del paese, ma se per lottare contro appunto l'evasione fiscale si propone di assoldare per 2 mesi studenti o turisti, tra parentesi dovendo poi pagarli, perché c'è anche questo elemento, mentre finora hanno sempre cercato di ridurre il numero appunto dei dipendenti statali, ci si chiede come possa ottenere appunto i risultati che poi gli consentirebbero di dare a queste misure diciamo per alleviare la difficoltà dell'austerity. Quindi c'è proprio un problema di vaghezza, di estrema astrattezza, e qui è più il professore Varoufakis che parla più che il ministro delle finanze di un paese che deve mettere e portare a casa dei risultati concreti, e naturalmente sono proprio due linguaggi che non si capiscono, quindi c'è un'estrema difficoltà a intendersi tra i 18 membri dell'Eurogruppo e la Grecia, che parla un linguaggio completamente diverso. Inoltre non si parla più di privatizzazioni, che erano un elemento importante, non c'è più una serie di fattori che invece dovevano migliorare la competitività del paese. Tutto questo è un po' sparito dall'orizzonte, tutto questo preoccupa molto i creditori. E quindi diciamo la vaghezza del piano. Faccio notare, visto che molti ascoltatori si sono scatenati su questo, che comunque Tsipras non ha mai ipotizzato l'uscita della Grecia dall'euro, nel senso che lui vuole restare dentro l'euro. È interessante però notare, così concludiamo Vittorio, un po' di nervosismo, diciamo così, del suo governo, perché la dichiarazione del ministro alla difesa oggi, insomma, se la fa un leader di un partito d'opposizione minore, vabbè, ma insomma dire inonderemo di migranti quelli che non ci aiutano, daremo i documenti a chi sbarca in Grecia per raggiungere i paesi del nord Europa, no? Sì, qui c'è veramente il senso di una di un governo che è anche molto diviso al suo interno, perché il Cammenos è il leader di un partito di diciamo di destra nazionalista, quindi che è molto sensibile sul tema degli immigrati clandestini, mentre la parte di Syriza, della sinistra, appunto di questa coalizione di sinistra radicale, addirittura era pronta a eliminare i centri di accoglienza e di rendere appunto tutti liberi di circolare senza molti controlli. Quindi c'è veramente una difficoltà all'interno ad avere una linea comune su una serie di problematiche come appunto questa dell'immigrazione. Per di più, oggi c'è il quantitative easing, ma Grecia e Cipro sono esclusi dall'acquisto di bond. Esatto, per ora sono esclusi, finché non vi sarà un accordo. E tra l'altro la borsa greca ha perso il 4,8% con cali profondi sui titoli bancari. Allora, molti mi scrivono sugli scontrini in Grecia. Allora, chiaramente era una battuta e un paradosso. O meglio, molti mi stanno scrivendo che ad Atene i negozi rilasciano gli scontrini. È vero, allora se vogliamo andare nel dettaglio, ad Atene è una cosa, andate nelle isole e vediamo se il tasso di scontrini ricevute, non parliamo della fattura, è altrettanto alto. Alcuni mi scrivono anche da noi è così, soprattutto nel mezzogiorno, lo sappiamo, infatti siamo il paese che ha l'evasione più alta in termini numerici, in proporzione in termini assoluti dell'intera Europa. Grazie a Vittorio D'Arold, e visto che si parlava di borsa, la borsa. Allora, la borsa oggi, dicevo, molto incerte le borse europee. Parigi meno 0,55, come altre in negativo, in positivo Francoforte dello 0,27, e Londra ha perso lo 0,51, gli Stati Uniti stanno guadagnando lo 0,70% sul Dow Jones. Invece Milano ha chiuso con un più 0,57%, dovuto soprattutto alle banche popolari e a un'analisi arrivata dalla banca d'affari Goldman Sachs. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Goldman Sachs dice che se passerà la legge, che oggi è in Parlamento, 350 emendamenti, vi sarà tutto un percorso di aggregazioni e fusioni tra le popolari in Italia. Oggi guadagnano soprattutto Banca Popolare Emilia Romagna il 3,60, Pop Milano l'1,70, Monte dei Paschi, che non è una banca popolare, più 1,60 in tutti i sensi, mi viene da fare la battuta, è più 1,60%, Intesa più 0,90%. Invece più al palo altri titoli, mi riferisco soprattutto per quello che riguarda le banche, Mediobanca meno 0,24%, il Banco Popolare meno 0,60%. Poi in negativo troviamo Telecom Italia meno 2,20, Moncler meno 2, Tod's meno 1,40%. Ma il caso di borsa, al di là delle banche popolari, si chiama Saipem, più 4,1. Guido. Sì, per quello che riguarda Saipem, oggi c'erano delle indiscrezioni relative ai pagamenti che Gazprom avrebbe effettuato a Saipem per il progetto South Stream. Lo ricordiamo, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, proprio lo stop al progetto South Stream era stato uno dei motivi che aveva spinto al ribasso il titolo Saipem. Ci sono comunque degli accordi e dei vincoli fra i due gruppi che obbligano Gazprom a pagare una parte dei soldi che avrebbe dovuto nel caso ci fosse stata la realizzazione del progetto. Questi pagamenti stanno avvenendo come è normale in questi tipi di contratto, e il fatto che questo stia succedendo comunque è visto in modo positivo dagli operatori, è una notizia positiva per Saipem, che comunque inizia ad incassare nonostante lo stop al progetto, e oggi su questa notizia il titolo ha guadagnato appunto il 4,1%. Oltre a Goldman Sachs, sulle popolari c'è il documento di bilancio che ipotizza, mi riferisco a Popolare Emilia Romagna e Banca Popolare di Milano, no? Sì, prego. invece il Banco Popolare, che nella lettera che invia ai soci in vista dell'approvazione del bilancio, ha detto sostanzialmente che il Banco Popolare si candida a diventare il terzo polo bancario italiano dietro l'Intesa San Paolo. Sì, ma lui vuole essere credit. Quello che compra, l'aggregante, poi vuol dire questo, no? Esatto, vuole essere quello che compra, e quando si va a vedere le possibili prede, le due banche candidate sono proprio la BPER, che oggi ha guadagnato il 3,65%, e la Popolare di Milano, che ha guadagnato l'1,73%. In qualche modo, insieme al report di Goldman Sachs, anche questo spiega un po' l'andamento, cioè il Banco Popolare in quanto polo aggregante ha ceduto un po' oggi, ha perso quota, mentre le due possibili prede ne hanno tratto dei vantaggi. Telecom Italia invece, il calo c'è tutto, alla fine meno 2,21%. Sì, Telecom oggi ha pagato un po' di indiscrezioni sulla rete. Sembra infatti che il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, Bassanini, abbia avviato dei confronti, dei colloqui con Vodafone e Wind per spingerli a investire in MetroWeb. In questo caso la posizione di Telecom, che era una dei possibili pretendenti a MetroWeb, rimarrebbe un po' in disparte, e questo non è stato visto in modo positivo dagli operatori, perché vorrebbe dire che Telecom Italia deve sostanzialmente investire da sola nella rete di nuova generazione, non può approfittare delle sinergie con MetroWeb, e in più si troverebbe anche dei concorrenti sul settore, perché se entrano in modo più massiccio Vodafone e Wind nel settore della rete di nuova generazione, per Telecom potrebbe essere un problema. Dicevo, i migliori e peggiori mossi dal calo dello spread, siccome il settore immobiliare è spesso indebitato con le banche. Gabetti guadagna il 18,80%, risanamento più 15,30%, e Prelios più 9,92%. Poi sul fronte di chi più perde invece Geox meno 3,40%, Orange meno 5,80%. E noi chiudiamo da dove eravamo partiti. La riforma delle popolari sarà oggetto domani del nostro programma, visto che sono quasi 350 gli emendamenti sul disegno della legge delle banche popolari, e devo dire il governo non ha ancora deciso se mettono o no la fiducia. Ma ringrazio per averci aggiunto in collegamento il professor Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera professore. Buonasera dottor Valissoni. Che proprio il 6 marzo, se non ricordo male la data del suo fondo, commentava diciamo, l'operazione che oggi è partita ufficialmente. Una spinta per la ripresa, purché ci siano alcune cose che funzionano, altrimenti, cito testualmente, troppa benzina può anche nuocere. Allora, intanto il giudizio sulla prima giornata, ma che cosa vuol dire, dottor Masciandaro, che la troppa benzina può anche nuocere? Vuol dire che avere eccessive illusioni sul valore di una, sulla capacità di una benzina di far partire un motore quando il motore è fermo, può dare grandi delusioni. La benzina adesso viene immessa in un momento in cui forse il motore sta ripartendo. Per essere molto chiari, il quantitative easing nei mesi scorsi sarebbe stata solo una grande festa per chi vive di liquidità, che non è l'economia reale, sono i mercati finanziari, e verosimilmente non sarebbe servita a nulla a chi dell'economia reale è il motore, cioè il settore reale, che se non ha aspettative non investe. Certo. Il settore delle famiglie, che se non ha aspettative non consuma, le banche, che se non hanno aspettative di crescita non fanno credito. Oggi i dati sembrano diversi, e forse è il momento giusto per provarci. Che è un po', visto che la citavo prima, la battuta sul cavallo che non vuole bere, nel senso che tu puoi mettere a disposizione i soldi, ma se uno non ha fiducia nel futuro, non se la sente di correre dei rischi, non va a aprire una linea di credito con una banca solo perché c'è il QI di Draghi, no? E così come non vai a fare spese se sei una famiglia solo perché la banca ti presta i soldi, perché di solito la banca quando presta i soldi li vuole anche indietro, poi non sempre ci riesce. È solo perché il governo ti ha messo 80 euro in busta paga. Esatto, e questa era la critica che facemmo a suo tempo sulla misura della busta paga, che forse conveniva di fiscalizzare le imprese, quindi creare maggiori elementi competitivi. Ma non voglio tornare sugli 80 euro, restiamo sull'operazione di oggi. Possiamo dire però che questo è il modo, l'unico modo in cui Draghi ha potuto cercare di fare quello che ha fatto l'America a fronte di un'Europa, di un'area euro, in cui il vero strumento, perlomeno a mio avviso, che sarebbero stati gli euro bond, cioè obbligazioni di carattere europeo per finanziare progetti di crescita, di investimenti, di infrastrutture, tanto la Germania non te li faceva passare? L'unico modo per avere, provare a costruire un mercato finanziario, perché il grande errore che quasi tutti fanno, tranne in questa trasmissione, lei l'ha subito chiarito, è che noi non siamo gli Stati Uniti, nel senso che negli Stati Uniti le operazioni di aggressive sui mercati funzionano perché ci sono i mercati finanziari, da noi i mercati finanziari non ci sono. Allora, in assenza dei mercati finanziari occorreva uscire dalla trappola della liquidità. Lo ripeto, non sono certo che ne siamo usciti. Spero che i dati che Draghi ha annunciato qualche giorno fa ci diano quel tipo di indicazione. Speriamo. Per cui le dice, viste le opposizioni, le resistenze, l'unico modo, l'unica strada per uscire dalla trappola della liquidità vuol dire sostanzialmente appunto che c'era troppa liquidità in giro che veniva investita sui titoli di Stato, perché poi il vero elemento, a mio avviso, la vera forza di questa manovra è sì, dare la possibilità, ma soprattutto rendere sconveniente, professor Masciandaro, continuare per le banche in primo luogo a comprare titoli di Stato, forse qui. L'obiettivo dovrebbe essere quello, però lo ripeto, finché non vediamo le scelte concrete di banche, famiglie e imprese, l'unica cosa che potremo vedere è un appiattimento dei tassi di interesse e non spegliamoci le mani per questo che sta succedendo, perché se io fossi un assicuratore sarei molto preoccupato. Tutti coloro che devono servire i risparmiatori su orizzonti di lungo termine, i fondi pensioni, gli assicuratori, hanno bisogno di tassi di interesse diversi da zero. Ora, i tassi di interesse sono zero e sono negativi e rischiano di esserlo per tanto tempo. Questo significa che fondi pensioni e assicurazioni non avranno giornate facili. Quindi prima di applaudire sempre e comunque al fatto che c'è tanta liquidità, speriamo che questa manovra finisca prima del settembre 2016, perché se andassimo anche oltre, io vedo solo un sistema che si gonfia di liquidità, però se a settembre 2016 non ci sono ancora segnali robusti, io sarei molto preoccupato. Ed è il rischio bolla a cui facevamo riferimento prima. In una battuta, non c'entra niente, però siccome lei era stato nostro ospite in quei giorni, visto che il governo sta analizzando, o meglio il Parlamento sta analizzando il disegno di legge del governo sulle popolari, lei professore è rimasto alla sua idea che sia sbagliata quella riforma? Ma io quella volta dissi che era un provvedimento ingiustificato, un rappresentante del governo ha detto che è un provvedimento opinabile, che è la stessa cosa, non ha alcuna ragione economica, ha sicuramente tante ragioni politiche e credo che le vedremo mettere in atto presto, quindi continua ad essere un provvedimento che non ha alcuna razionalità economica, però se servirà a risolvere qualche problema per il governo io sarò il primo ad essere felice. Va bene, grazie anche all'economista nonché editorialista del Sole 24 Ore Donato Masciandaro. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi torniamo in diretta domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.